Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Nell'ordine credo che Juventus e Napoli siano un filo avanti agli altri, però direi che l'Inter sicuramente rientrerà a lottare per lo scudetto, così come il Milan che sta facendo grandissime cose e la Roma che sicuramente confermerà la rosa dell'anno scorso e più o meno punterà l'anno scorso. E la Juventus lo ha fatto, quindi gli si dice bravi. La dobbiamo rispettare per la forza che ha, ma il rispetto non deve essere poi confuso con timore. Noi non abbiamo timore di giocarci, non dobbiamo avere timore di giocarci. Non inciamperemo nell'ultimo scalino della scaletta quando giochiamo contro la Juventus. Si va dritti in campo a vedere chi è più bravo. Più che idee, credo che ci dobbiamo preparare a lavorare sodo per poter cercare di ottenere maggiori successi in tutte quelle che sono le competizioni, perché questa società, questo ambiente, questa squadra richiede tutto ciò. E io sono pronto a questa sfida, cercando di migliorare sotto tutti i punti di vista. Di contraddittorio c'è anche che sono stati superati l'anno scorso tanti record, magari senza passa in secondo piano, che questa squadra è arrivata seconda con 87 punti, portando un giocatore a fare più di 30 gol nelle varie competizioni. Si vede che c'è stato un lavoro dietro importante. Ma per raggiungere poi magari qualche traguardo, tutti quanti insieme dobbiamo fare qualcosina in più. E io sono qui per questo. Faccio un grosso bocca al lupo a entrambi e credo che abbiano tutte le possibilità per far bene, magari sperando che arrivino dopo la Juventus. 14.08, buon pomeriggio a tutti, siamo qui in diretta 800 24 00 24 per le vostre chiamate, vi prenotate e intervenite fino alle 15.30, 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp. Ieri è stato il mercoledì degli allenatori, li abbiamo sentiti, Allegri, Spalletti e Di Francesco, gli ultimi due si sono presentati, oggi è il giovedì di Gianluigi Donnarumma e dopo le 15 vi daremo le ultime, anche qualche retroscena di questo incontro che dovrebbe avvenire nelle prossime ore, perché Mino Raiola è arrivato ufficialmente in questi minuti nel centro di Milano, quindi vanno tutti a pranzo e poi dovrebbe esserci il giorno della verità a casa Milan su Donnarumma. Ripeto, dopo le 15 vi daremo tutte le ultime, parleremo anche di basket. Saluto subito Maurizio Crosetti, ciao Maurizio. Buongiorno a tutti, ciao a te. Oggi è tutte queste cose qui che vi ho detto, però se permetti Maurizio partiamo da Erika, 38 anni, la notizia è di questa mattina, è una delle due tifose ferite gravemente nella notte folle del 3 giugno in piazza San Carlo a Torino. Insomma, la freddezza del comunicato dice: infarto da schiacciamento, danno neurologico gravissimo, non ci sono più speranze, quindi quella notte folle ha fatto una sua vera prima vittima. Maurizio. È agghiacciante ripensarci e anche non poter più usare in effetti quella frase che rimane valida, cioè che è stato un miracolo se la notte di Piazza San Carlo non è diventata la strage di Piazza San Carlo. Dopodiché perdere una vita non è come perderne mille, ma è grave ugualmente, è doloroso ugualmente, e sottolinea ancor di più la catena imperdonabile di errori, un po' di fatalità ma di più di errori, che è stata messa insieme, annodata, allacciata, inanellata in una notte da dilettanti, da dilettanti tutti, sì, dal comune, dalla sindaca alla questura, alla prefettura, non ha pagato finora nessuno. Noi leggiamo con un sollievo, Maurizio, anche nei prossimi giorni, in tante piazze italiane, perché giustamente la vita va avanti, ci saranno delle feste, ci saranno concerti da decine di migliaia di persone, e ci sono misure di sicurezza, ci sono filtraggi, ci sono divieti, c'è tutto, resta sempre questa sensazione rabbiosa che si arrivi sempre dopo. si arriva sempre dopo e qualche volta non si arriva neppure, e neppure si arriva a rispettare la BC di un'organizzazione di un evento di piazza di massa, che anche in tempi di scacco psicologico, di potenziale panico e quant'altro, vogliono il rispetto delle vie di fuga, il divieto assoluto alla vendita degli alcolici, la chiusura, viva Dio, dei parcheggi sotterranei, perché se avessero messo un'autobomba in piazza San Carlo sarebbero morte migliaia di persone. C'erano gli accessi aperti e dai parcheggi di piazza San Carlo sbucavano i venditori di alcolici. E le bottiglie, come tutti sanno, sono diventate un tappeto di cocci che hanno ferito, che hanno ferito centinaia di persone. Centinaia di persone. Centinaia Quindi di persone. Questo si chiama semplicemente dilettantismo pericoloso. Noi siamo qui e aspettiamo di sapere. Oggi non possiamo fare nient'altro che ricordare Erika, 38 anni, la prima vittima della notte folle di Piazza San Carlo. 800 24 00 24. Maurizio Crosetti, ti faccio sentire la parte che ha fatto titolo dell'intervista di ieri di Massimiliano Allegri, quella sulla sua idea di mollare tutto dopo la sconfitta di Cardiff. Tutti mi domandavano in caso di vittoria se sarei andato via, invece io al limite sarebbe stato un caso di sconfitta, quindi ho dovuto pensare e soprattutto a vedere cosa avevo dentro di me per cercare di ripartire nel migliore dei modi, perché quest'anno sarà un anno molto più difficile, perché dopo tre stagioni con tre scudetti, Coppa Italia, finale Champions e Supercoppa, è normale guardarsi dentro, perché al limite dopo rischi di fare un patatrack. Invece poi dopo velocemente ho deciso, mi ha parlato con la società e ci sono tutti i presupposti e la voglia di fare un'altra grande stagione, quindi sarà una sfida nella sfida, una sfida dentro noi stessi. Cross, io voglio fare con te questa riflessione ad alta voce. Io credo che sia pericolosa la confessione che ha fatto ieri Massimiliano Allegri, questa tentazione di chiudere con la Juve dopo Cardiff, ed è pericolosa secondo me perché l'allenatore deve essere un condottiero sempre e comunque, e sapere che anche per qualche ora ha immaginato che non potesse essere possibile fare meglio, magari fra qualche mese potrebbe indebolirlo. Sì, anche perché rischia di essere già indebolito dentro psicologicamente, ed è umano questo, perché Allegri non è uno sciocco, è un analista di se stesso, del calcio e della sua squadra, molto, molto razionale, ammesso che poi il calcio possa essere analizzato con razionalità e non possa spiazzare quasi sempre. Però Allegri sa che sarà molto difficile che la Juve superi se stessa e arrivi oltre questi tre anni o questi sei anni, mettendoci dentro anche quelli di Conte. Sa che è un ciclo fisiologico, direi ciclo vitale, come quello dei fermenti lattici, no? Anche per un allenatore non può durare oltre un certo numero di anni. C'è la data di scadenza. La data di scadenza ce l'abbiamo tutti. A meno di non chiamarsi Ferguson. Sì, ma però alla fine anche lui l'aveva solo un po' più in là, ma è scaduto anche lui. Sì. E quindi io credo, poi sinceramente, dopodiché io sono quello che da questi microfoni ha detto più volte che la Juve avrebbe vinto la Champions, ero convinto di questo. E resto convinto che fosse giusto esserlo convinti. Noi continuiamo a prenderci le pernacchie, eravamo in tanti a pensarlo. No, perché non c'è problema. Non è troppo siamo facile qua dimenticarsi, no, delle cose che si credevano. E però con la stessa convinzione, e magari sbagliandomi pure come mi sono sbagliato per Cardiff, penso che Allegri forse davvero avrebbe fatto meglio ad andarsene. Anche per la ragione che dici tu, perché è un po' come Totti, cioè quando tu sei arrivato al massimo, Totti vabbè avrebbe dovuto secondo me smettere del tutto un anno fa, e Allegri probabilmente avrebbe dovuto lasciare la Juve al massimo della sua possibilità, che non è stata la vittoria di Champions. Dopodiché, sì, per carità, è stata una stagione straordinaria comunque, che è stata una stagione straordinaria comunque. Ma è proprio per questo, cioè non perché la Cardiff abbia limitato la stagione, ha tolto un grande risultato, quello più atteso, ma la Juve è comunque arrivata al massimo questo suo percorso, anche anagraficamente. Io sinceramente non in Italia, beh, è diverso il discorso, io parlo in prospettiva Champions, in prospettiva far meglio, però per carità, si potrebbe anche dire, ma allora si gioca solo quando si pensa di poter vincere, cioè non è questa l'idea dello sport, no? L'idea dello sport è rimettersi in gioco ogni volta, ricominciare, in questo senso Allegri è sportivo. Però io ho l'impressione che sarà per lui un anno difficile. Sì, sarà soprattutto una risalita psicologica da Cardiff. Io lo diciamo anche, perché poi basta nominare Allegri, 349-238-6666, puntuale, due secondi, arriva il messaggio, speriamo che Allegri se ne vada, tifoso della Juve. Beh, però, e un giorno però capiremo sì, perché, vabbè. Un giorno capiremo ma no, perché. Vabbè, ma sono gli orfani inconsolabili di Conte, sin dal primo giorno. Molti di questi sono stati altro che consolati da Allegri, che è andato oltre Conte, questo va detto, anche se Conte era riuscito a, come dire, a riportare in vita una Juve praticamente defunta, no? L'elettroshock, il defibrillatore, il primo ad averlo appoggiato sul petto di questa specie di cadaverone bianconero è stato Conte, questo gli va riconosciuto. Però poi Allegri ha fatto molto di più. Allegri ha trasformato la Juve in un qualcosa di più duttile, di più equilibrato. E di più vincente. Di più e meglio vincente. Però adesso che succede? Ma come si fa a far meglio di così? Ripeto, ho molti dubbi che ci si riesca. Secondo me ieri qualcosina l'ha detta Allegri tra le righe. Quando dice l'anno prossimo sarà tutto più difficile, il nostro obiettivo è confermarsi tra le prime otto, tradotto, vediamo di non sbagliare quelle 3-4 scelte fondamentali sul mercato che dovremmo fare. Magari gli è tornato in mente che un centrocampista in più di qualità gli sarebbe servito a Cardiff, invece di avere una linea di riserva che oggettivamente non era all'altezza. Siamo in ritardo sul traffico, mi dici in un flash, ma lo chiedo anche agli amici a casa, 800 24 00 24, come finisce il D-Day, il Donnarumma Day? Secondo me alla fine Donnarumma va via perché Raiola ci guadagna molto di più, perché lui anche il ragazzo ci guadagna molto di più. Per carità, poi se il Milan non lo vuol cedere può tenerlo fuori, però io non credo che con un personaggio che vale così tanti soldi e che muove così tanti soldi una società italiana oggi possa, con tutto il rispetto dei cinesi naturalmente, possa reggere il confronto con le offerte che sono arrivate a Donnarumma. E poi c'è Raiola, cioè quando c'è di mezzo Raiola, voi avete mai visto il nodo un giocatore lì, che non il cambia squadra? L'avete mai visto? Nedved, perché ha giocato al Messi però perdonami Maurizio, qui siamo nemmeno all'alba di tutto e quindi ci sarebbero i margini perché restasse, però c'è anche il traffico, grazie Maurizio. Tanto abbiamo tempo fino alle 15:30 anche per raccogliere il vostro parere. Il nostro l'abbiamo detto ieri, Donnarumma ha perso completamente su tutta la linea. Comunque vada a finire, il Milan secondo me se tiene la schiena dritta ne esce bene, però voglio sapere che cosa ne pensate. 800 24 00 24, traffico e poi proseguiamo. Tutti convocati. Mi sono dimenticato di dire che ci potete anche vedere, oramai è una consuetudine, quindi sul sito radio24.it, sul nostro canale YouTube e su Facebook. Le pagine sono quelle di Radio 24, ma soprattutto quella di Tutti Convocati trattino Radio 24, dove vi invitiamo a venire. Pierluigi Pardo, ciao! Ciao, iscritto, sì, sulla pagina Facebook di Tutti Convocati. Certo, sono quasi un amministratore. Quasi un amministratore, sì. Quasi. Aspetta che saluto anche Nando Orsi, ciao Nando. Ciao, buongiorno, ciao Pierluigi, ciao, buongiorno. Ciao. Dai, voglio sapere da voi due, chi vi ha colpito di più ieri tra Di Francesco e Spalletti, Nando? Allora vado controcorrente, dico Di Francesco. Di Francesco, perché? Di Francesco, perché si è vista nei suoi occhi la contentezza di tornare in un posto dove lui ha lavorato, dove è stato giocatore, dove conosce un ambiente, e quindi per me lui è arrivato al massimo della sua carriera professionale, no? Allenare la squadra dove hai giocato, secondo me, per un allenatore è straordinario, è fondamentale. Anche se c'è il paradosso che insomma lui ha parlato di umiltà, ha parlato di tanto lavoro da fare e parla della squadra che è arrivata seconda. Perché lui di concetto è un giocatore molto utile, molto umile, dico, come uomo, no? Quindi è ovvio che parla in questo senso. E poi dopo va in un ambiente dove l'Atalanta è arrivato secondo, dovete fare una Champions League. Non può sicuramente fare un po' essere troppo, troppo espansivo, no? come dichiarazioni. Però lui come ragazzo è bravo, è molto riservato, però sul campo è uno che si fa rispettare. E l'importante è proprio questo, che la società cerchi di proteggerlo, perché Spalletti l'anno scorso un po' è stato poco protetto, no? In certe situazioni. Quest'anno la società deve un po' proteggerlo, perché è un allenatore che arriva da una realtà diversa, però... Allegri al Milan è arrivato dopo il Cagliari, Sarri al Napoli è arrivato dopo l'Empoli, e quindi ci può stare. Secondo me Di Francesco è una scelta giusta per la Roma. A te Pier, chi ha convinto di più? No, ma Di Francesco ha fatto Di Francesco e Spalletti ha fatto Spalletti. Sono stati in linea con la loro immagine, con le loro, con i loro rituali di comunicazione. Io sono d'accordo con Fernando, perché penso che ci sia un po' di scetticismo abbastanza incomprensibile qui a Roma. Di Francesco è più avanti, ad esempio, di Sarri. Cioè, quando Sarri è arrivato al Napoli, aveva fatto praticamente una stagione di Serie A, sia pure molto positiva, aveva mostrato dei segnali, ma era veramente una scommessa. Di Francesco è più avanti da questo punto di vista. Anche l'esempio di Allegri quando dal Cagliari è andato al Milan. Insomma, non è una scelta così, così assurda e così di basso profilo, tutt'altro. Quindi io penso che ci siano tutti i presupposti per far bene. È chiaro che quello che introspettisce i tifosi della Roma è che chiaramente è una scelta di un allenatore emergente, ma non di un top manager in questo momento, che si unisce a tutta una serie di voci. Ma da questo punto di vista Monchi ieri ha fatto un po' di chiarezza. Sì, credo abbia fatto anche apposta, abbia forse anche forzato un po' il concetto. Io so abbastanza per certo che ieri mattina non è stato apprezzato, ad esempio, un famoso giornale che ha messo in prima pagina un giocatore della Roma con la maglia dell'Inter. Parlo di Rudiger, ovviamente. Sì, è il giornale La Gazzetta. No, è il Corriere dello Sport. Ah, il Corriere dello Sport. Allora, vedi, va bene. Allora, il Corriere dello Sport. Però sì, il concetto è quello. Ma sai, la Roma è una grande del calcio italiano, quindi è ovvio che si tiene a mettere i punti sulle i di fronte a certe situazioni. La frase di Monchi sul fatto che la Roma non è un supermercato è una frase, secondo me, risolutiva. Poi di fondo sappiamo che qualcosa da sistemare dal punto di vista del budget c'è, sappiamo che c'è un discorso di fair play, sappiamo che c'è alle spalle una proprietà sicuramente facoltosa, che poi comunque gli investimenti non sono mancati, ma che non ha la forza potenziale che può avere il signor Zhang o la Juventus, insomma, quindi è un pochino dietro da questo punto di vista. Ma detto questo, Monchi ha una garanzia. Quindi il vero tema, secondo me, l'anno prossimo è legato alla pazienza, all'ambiente, al fatto di remare dal punto di vista ambientale tutti dalla stessa parte, perché Di Francesco è un bravissimo allenatore, l'ha dimostrato, perché Monchi è un fenomeno, perché la Roma parte, anche se dovesse vendere un paio di giocatori importanti, parte da una perché è molto, molto solida. Poi c'è anche quell'altro tema, perché è una figura ancora ingombrante, anche se ha smesso, cioè Francesco Totti. C'è da capire che cosa farà. Ieri mi sembra che Di Francesco sia rimasto sulle uova, sull'argomento Totti, ma giustamente. Volevo invece capire con Nando Orsi, io ho questa impressione che a Spalletti abbiano spiegato molto bene cosa è successo l'anno scorso all'Inter. Beh, sicuramente sì, ma se n'è accorto anche da solo, no? Io mi riferisco sempre al 2011, quando Inter ha vinto il triplete, che è 2010. Ho visto il percorso del Bayern Monaco e ho visto il percorso dell'Inter. L'Inter è stata una squadra che tutti gli anni, non dico quasi sempre peggiorato, ma ci siamo. E quindi secondo me questo è l'anno zero per l'Inter. E Spalletti si è trovato, per sua fortuna, in un anno zero, e dove c'è una proprietà che ha delle disponibilità straordinarie. E quindi sono convinto che accontenterà l'allenatore, ma soprattutto un allenatore al quale piacciono i giocatori che giocano di squadra. L'Inter mi è sempre sembrata una squadra che ha dei giocatori che giocano molto più per loro che per la squadra, e questo secondo me è stato uno dei problemi dello scorso anno. Quindi quest'anno trovo un allenatore senza coppe, perché l'Inter non giocherà le coppe, che potrà lavorare tutta la settimana. Questo è un miracolo praticamente per un allenatore come Spalletti, perché lui è un uomo di campo, un uomo che quando sta sul campo e lavora con la squadra se riesce ad acquisire quelli che sono i risultati poi li vedi. Sì, poi c'è un po' la suggestione dell'uomo forte, come se l'Inter non avesse avuto allenatori forti dopo Mourinho. Mancini era un uomo forte, il problema credo era il contesto tutto intorno. Sì. Era forte, forse non forte abbastanza per la quantità di confusione che c'era. Io sai come la penso, cioè, secondo me c'è stata un po' di sopravvalutazione sulla rosa dell'Inter. La famosa prima pagina della Gazzetta dello Sport l'anno scorso, con l'Inter che veniva data in seconda posizione dietro la Juve, qui non l'ho mai condivisa. Mi ricordo benissimo un intervento che c'era Rolando prima di Inter-Lazio, girone d'andata, in cui io dicevo che la Lazio non era molto più forte dell'Inter. Per me l'Inter è stata veramente molto sopravvalutata. Non è come si chiami Inter, se è un club così glorioso, per forza poi i giocatori debbano avere quel livello che tu hai. Ma forse lo è ancora, in attesa di vedere cosa esce dal mercato. Sopravvalutiamo l'idea che potrà uscire un Inter fortissima. In certi momenti vestire la maglia dell'Inter o del Milan, o comunque di grandissimi club, lo è stato anche per la Juve negli anni dei settimi posti, diventa quasi un boomerang, perché se tu non sei all'altezza dal punto di vista tecnico per diciamo riempire i sogni dei tifosi che sono abituati a un certo tipo di livello, va in crisi il possibile ancora di più. Infatti quest'anno siamo viste cose imbarazzanti. Sono d'accordo, è l'anno zero, Spalletti è l'uomo giusto perché è bravo, che è bravissimo. Io, il mio unico dubbio è legato, cioè l'unica cosa che proverei a sistemare un po' è dal punto di vista della comunicazione, dargli un supporto, dargli un uomo che faccia sì che ci sia della qualcuno che lo aiuti a fare da filtro per evitare che sia lasciato solo, no? Rapporti con i giocatori, insomma, questa è l'unica potenziale area che potrebbe diventare critica se l'Inter non dovesse partire bene, se dovesse esserci qualche difficoltà. Ascolta, abbiamo ci avviciniamo alla borsa. Allora, io saluto Pierluigi Pardo, appuntamento con te per domani. Sono qua con i neozelandesi che mi salutano. Beato te, fatti fare l'H. Adesso la vediamo. Saluto anche Nando Orsi, cui chiedo in 10 secondi di dirmi secondo lui come va a finire il D-Day, il Donnarumma Day. Lo so. Dai. Purtroppo ho 10 secondi, ma io non condivido il comportamento di Donnarumma e quindi di chi gli sta vicino. Andrò controcorrente. Oh no. Il calcio è diventato questo, purtroppo. I procuratori condizionano molto i giocatori, ma questo ragazzo che ha 18 anni. A 18 anni, senza quelle valutazioni, puoi anche sbagliare qualche partita. A 18 anni, con delle valutazioni da 100 milioni e da 8 milioni di euro l'anno, nonostante tu abbia 18 anni non puoi più sbagliare, e quindi è ovvio che a 18 anni ancora sei un bambino, hai preso la patente da poco, ancora puoi guidare una microcar 50, e quindi vuol dire che non sei diventato grande, nonostante poi il calcio ti faccia diventare grande a tutti i costi. Si è bruciato la gioventù in un mese di trattativa. Grazie Nando. Credo sia andata. Un patrimonio del calcio italiano. Sì, ma anche se dovesse restare l'immagine è quella. Esatto. Io dico quello. Grazie Nando. A voi. Ciao, grazie Nando Orsi. 800240024. Fatemi fare Massimo da Brescia. Dai, Massimo. Buongiorno. Vai. Sono Massimo. Io sono tifoso della Juve. Sì. Volevo parlare un secondo di Allegri. I commenti che facevate prima con Crosetti riguardo. Vai. Allora, io sono dell'idea che secondo me Allegri ha fatto bene a dire quello che ha provato, perché è stato sincero, ha parlato con sincerità, ha dimostrato di essere un uomo che tiene al suo lavoro e al rapporto con la Juventus, e questo non lo renderà più debole o psicologicamente più debole, anzi una cosa che viene portata fuori e viene esplicitata, viene esorcizzata, e quindi è più semplice, diciamo, ricostruirsi, rigenerarsi e rafforzarsi. Guarda, io credo, Massimo, che lui, se è stato sincero, abbia fatto bene. Chi è sincero fa sempre bene, però l'allenatore deve essere l'uomo che trascina tutti gli altri, prima di tutto dal punto di vista psicologico, e la Juve farà fatica a dimenticarsi gli schiaffi di Cardiff, e se non dovesse iniziare benissimo, come ad esempio capitò dopo Berlino, magari queste parole e questa sensazione potrebbe ritorcersi contro Allegri e contro la sua idea di prossima Juventus. Poi io penso che abbia fatto benissimo a restare. C'è la borsa, ci fermiamo. 800240024 349-238-6666. Ci state mandando una marea di messaggi sulla vicenda Donnarumma, continuate perché se li leggiamo, spazio a voi. Poi c'è De Biasi che ieri ha pianto per l'addio all'Albania. Tutti convocati. Apparteniamo a una comunità di viaggiatori in cerca di luoghi sconosciuti, tutti da scoprire. Un'Italia fatta di borghi antichi, di bellezze naturali e meraviglie architettoniche. Viaggia con noi per ascoltarne la storia e respirarne l'atmosfera. Radio 24 e Touring Club Italiano ti portano in alcuni tra i luoghi più belli e suggestivi del nostro paese. Ogni settimana in onda nel Sabato del Villaggio. Il sabato dalle 15 su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Dopo le 15 avremo tutte le ultime e anche qualche indiscrezione sull'incontro che sta per cominciare a casa Milan tra Mino Raiola e il Milan. Oggi è il giorno in cui si decide il destino di Gianluigi Donnarumma. sta arrivando un diluvio di messaggi, ve ne leggo qualcuno. Fa benissimo a cambiare area, il mondo è suo, via Donnarumma, non è degno di restare nel Milan. O ancora, nel contratto bisognerebbe mettere la clausola ogni papera uno schiaffo a Mino Raiola. Ancora un altro amico che scrive invece su WhatsApp: Mino Raiola è il male del calcio, mercenario. Poi ancora tifosi del Milan arrabbiati, Raiola contribuisce a rovinare il Milan, bisogna chiudere con questo personaggio. E ancora chi dice invece la clausola fa bene a chiederla perché è l'assicurazione sul piano impresentabile del Milan. Questo scrive un amico, 349-238-6666. Dopo le 15, come vi ho detto, vi daremo tutti gli aggiornamenti. Jacopo da Milano, 800-24-0024. Jacopo, dai. Sì, buonasera. Eccoci. Premetto che non sono un grande tifoso, simpatizzo Milan, però concordo su quanto detto fino ad ora su Donnarumma. E credo che Donnarumma sia l'esempio di come la passione per lo sport nel calcio poi a un certo punto diventi passione per i soldi. Beh, oltretutto non credo che sia stato offerto poco dal Milan. Prenderebbe in caso di firma quasi 5 milioni, quindi. Quindi a 18 anni e la possibilità di stare ancora in una squadra che diventeresti la bandiera del Milan, potresti fare ancora un sacco di anni di esperienza e a 23 anni avere ancora una carriera davanti immensa, quindi da questo punto di vista credo che sì, sia il procuratore che lo sta spingendo verso la direzione sbagliata. Sono assolutamente d'accordo, Jacopo. I Buffon, i Totti, chi lo sa se non esisteranno più, magari esistono. Non è vero che nel calcio, intanto non è vero che Raiola è il male del calcio, Raiola fa il suo lavoro, secondo me in questo caso fa male quello per Donnarumma, ma questa è una mia opinione. E poi non è vero che nel calcio non esistono più quelle storie lì, abbiamo vissuto quella di Totti, adesso vi parliamo di un'altra storia che ha molto emozionato. Saluto Gianni De Biasi, ciao Gianni. Ciao Giovanni, buona giornata. Ieri ti abbiamo visto piangere, o comunque con le lacrime agli occhi, salutando la nazionale albanese. Allora, adesso ne parliamo, io non ti voglio far piangere ancora, però abbiamo voluto raccontare in un minutino quello che sono stati questi anni. Se credevamo fortemente in una possibilità, noi un successo importante l'avremmo ottenuto. Qualcuno magari ci ha riso dietro in quel momento lì, però oggi quel qualcuno che rideva dietro oggi si aggrega a noi e ci viene dietro e svolta anche lui. Tempo scaduto, l'Albania vince a Yerevan e conquista per la prima volta nella sua storia la fase finale di un europeo. È il trionfo di De Biasi, l'Albania può far festa. È il trionfo di De Biasi, l'Albania. Game over al velodrome, vince 2-0 la Francia contro però una grande Albania. Io in Albania mi sento abbastanza a casa e credo di dare il meglio di me stesso quando mi sento accettato e accolto da un popolo che mi ha dato tanto, al quale io credo insieme al mio staff di aver dato altrettanto. Insomma, quanto sei stato lì, Gianni? Diciamo che ieri ero abbastanza emozionato a dir poco, perché sono 5 anni e mezzo di vita, sono esperienze vissute insieme a tante altre persone e aver fatto qualcosa in un paese dove nessuno poteva ipotizzare minimamente che noi riuscissimo nell'impresa che avevo ipotizzato proprio dalla prima partita amichevole nel 2012, il 29 febbraio, me lo ricordo ancora oggi, a Tbilisi contro la Georgia, una partita amichevole, è stata la mia prima esperienza con l'Albania e credo che da lì abbiamo cominciato il nostro lunghissimo viaggio. Un allenatore lo sente quando è arrivato il momento di andare via? Sì. Io credo che quando sei arrivato alla scadenza, e non è una questione di contratti. No, è una questione proprio di sensazioni, perché tu puoi dire le stesse cose allo stesso gruppo che hai detto l'anno prima, ma non hanno lo stesso appeal che hanno avuto la prima volta che se le sono sentite dire. Io credo che non avendo la possibilità di cambiare molti calciatori e pensando anche di riconfermare una buona parte, anzi direi tutta la rosa, credo che difficilmente potevo avere quell'appeal che avevo avuto nei primi due bienni. Ma ti sei un po' pentito di non essere andato via di casa dopo il meraviglioso europeo, la meravigliosa cavalcata che ti ha portato l'europeo e anche un europeo comunque assolutamente straordinario. Vissuto bene, vissuto anche da protagonisti, perché adesso ho sentito ribadire al velodrome che abbiamo perso 2-0, ma all'89esimo e 30 secondi noi avevamo preso un palo e loro non avevano ancora fatto assolutamente nulla. Le slide indoor dello sport. Esattamente, però ti dirò che io dopo l'europeo speravo che sullo slancio di questo europeo potessimo prendere anche noi nuova linfa e poter crescere in termini di esperienza, in termini di qualità. E invece non ho visto questo cambio di passo che io mi aspettavo. E questa è un po' la cosa che mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, perché questi ragazzi probabilmente si sono accontentati di quell'obiettivo, per quanto importante, ma era ancora un obiettivo per me parziale. Hai la sensazione che dopo l'europeo ci sia qualcuno che abbia perso un po' il senso della misura, magari anche nelle aspettative? Tu sei finito nel girone con Italia, Giovanni, e Spagna. Italia e Spagna. Sì, ma inconsciamente, Giovanni, io credo che inconsciamente nessuno mai lo ammetterà, ma è il primo discorso che ho fatto io alla squadra, che noi pensiamo di fare le stesse cose ma non le facciamo più con quel furore agonistico, quella determinazione che ci mettevamo quando siamo riusciti a raggiungere un obiettivo che era qualcosa di impensabile alla vigilia. Oggi pensiamo di essere già magari dei giocatori affermati, pensiamo già di averle, credo che loro si sentano un po' con la pancia piena da un certo punto di vista, anche se nell'ultima partita contro Israele mi ha fatto vedere delle cose diverse, però non posso cambiare per la sensazione di un momento. Io quello che mi ha un po' infastidito è stato il fatto che nell'amichevole di 10 giorni fa oramai in Lussemburgo dicevamo 1-0, dovevamo stravincere, abbiamo avuto un sacco di occasioni, abbiamo perso 2-1, e credo che una squadra come l'Albania non possa non avere come regola principale di essere sul pezzo dal primo minuto all'ultimo secondo, diciamo. Hai deciso quella sera? Sì, quella sera ho deciso che avrei lasciato la squadra. Ti faccio parlare con Artan, che ci ha chiamato 800 24 00 24, chiama da Lodi ma dal nome credo sia albanese, giusto? Sì. Tani. Vai. Pronto, buongiorno, io voglio fare i complimenti a De Biasi perché ha reso grande l'Albania. Voi non rendete conto l'emozione che ci ha dato De Biasi con quella squadra, e io so per certo che il lavoro, l'immenso lavoro che ha fatto De Biasi per mettere in testa questi ragazzi come devono lavorare e sudare duro. Io so perché ho 2 figli che giocano calcio in Lombardia a livelli dilettanti, regionali, e so il lavoro che c'è dietro. Perciò De Biasi ha reso grande veramente l'Albania. I miei figli quando giocano Albania ci mettono la maglia, e io ho adesso la pelle d'oca quando parlo per De Biasi, perché ci ha reso veramente grandi, ci ha fatto vedere in tutto il mondo che popolo siamo e emozioni enormi che ci ha dato. E fa bene a chi ha dato le dimissioni per far capire in Albania come si deve lavorare, come lavorano gli italiani, mentalità che danno gli italiani e come tengono gli italiani il calcio, il lavoro, il sudore. Sì, che c'è sempre la possibilità di andare avanti. Gianni, non era preparata, giuro. No, beh, grazie. ringrazio Artan, Tani, credo che in gergo noi lo chiamiamo così. Ha fatto molto piacere quello che ha detto, perché è quello che la maggior parte della gente pensa. In Albania la cosa più bella secondo me è che noi siamo stati apprezzati perché ci abbiamo messo l'impegno, la serietà. Non siamo andati in Albania per passare il tempo, perché non sapevamo che altro fare. Avevamo una voglia di stupire, e ci siamo riusciti con dei ragazzi che hanno delle qualità, altrimenti non riusciresti ad andare da nessuna parte. È bellissimo sentirti dire noi albanesi, anche se sei italiano. Noi abbiamo il traffico, siamo anche un po' in ritardo, io mi rubo ancora un minuto di Gianni De Biasi perché voglio finirla questa chiacchierata. Traffico, torniamo subito. I love this game. Tutti convocati. Convocati. Allora, ne stanno arrivando di messaggi per Gianni De Biasi, che ci sta raccontando perché se n'è andato di casa in questo caso è la nazionale albanese. C'è anche un messaggio a cui rispondo dopo io, perché mi sembra ingeneroso. Volevo sapere da Gianni De Biasi quanto è lontano il calcio che lascia, quello dell'Albania, ma io aggiungo anche quello dell'Islanda, del Galles, dell'Ungheria, che un anno fa ci hanno fatto tanti innamorare l'europeo. Oggi sono quasi tutti fuori dal mondiale. Quanto è distante dal calcio quello dei grandi? Ma vedi, vivi sempre sul discorso delle emozioni, sulle motivazioni, quando tu ti trovi in una realtà che non avresti mai immaginato di raggiungere, dai, non il 100 ma il 150%. Ma io credo che per ogni comunque realtà ci siano delle differenze. Io credo che l'Islanda sia partita da lontano e abbia un progetto dal punto di vista tecnico molto, molto valido, pur avendo un popolo molto molto piccolo, una popolazione piccola con le evidenti difficoltà nell'operare, poi riescono a esprimersi al meglio in campionati diversi, in Inghilterra, in Olanda e in altre realtà. Io credo che noi il problema più grosso lo partiamo dal punto di vista della scuola di base. Abbiamo una popolazione piccolissima, 3 milioni di abitanti in Albania, però ne abbiamo 5-6 milioni in giro ormai per il mondo, perché da qualsiasi parte vado io dico siete più dei cinesi ormai, perché trovo albanesi da tutte le parti, e c'è la possibilità di lavorare, però c'è da pianificare bene tutto un lavoro di base che serve per riuscire poi a volte è più difficile consolidarsi che fare il primo salto, che poi è un po' la storia della vita per tutti in qualunque lavoro, non solo nello sport. Allora, il messaggio a cui voglio rispondere io è questo, poi voglio chiedere a De Biasi cosa fa da grande. Luca da Bologna, che scrive: ha lasciato adesso per trovare una panchina di Serie A, punto di domanda. Si sono piazzati tutti, se voleva fare questo giochino mollava 2 mesi fa. No, assolutamente Gianni. No, assolutamente no, non voglio trovare nessuna panchina di Serie A, non ambisco a tornare in Italia, anzi se possibile io vorrei rimanere all'estero in qualche realtà, in una federazione oppure in un club, ma che mi dà la possibilità di fare un progetto dove io sono al centro di questo progetto, no? Sono in una posizione marginale, dopo 2 sconfitte vai a casa. Assolutamente non penso di prendere in mano una realtà di questo genere. Che è il senso di 5 anni e mezzo vissuti in Albania, poi? L'idea di poter costruire? Il senso di avere carta bianca, libertà di manovra e la possibilità di prendere i calciatori che tu ritieni più idonei per quello che è il tuo modo di vivere e pensare il calcio, ma non solo in chiave tecnica, ma anche nel fatto di generosità nei confronti del proprio compagno di squadra, di creare una squadra vera, dove ognuno ha una sua funzione specifica, dove ognuno dà il suo contributo per l'interesse della squadra, per mettere in mostra le sue abilità. La squadra deve metterti in condizione di essere supportato e quindi di essere aiutato e quindi di esprimerti al 110%. Questo è, secondo me, la filosofia. Spesso e volentieri io ho sacrificato dei pseudo giocatori più bravi di altri, secondo l'immaginario collettivo. Ma non è così. Allo spirito di squadra. Sì, è lo spirito di squadra che conta, è quello che ti fa andare lontano. Con la squadra vinci, col singolo puoi vincere una partita una volta ogni tanto. Guarda, ti saluto dicendoti che ieri Spalletti ha parlato di generosità dei giocatori verso i propri compagni. Non l'ho sentito io. E allora ti dico che è così. Va bene, ti dico così. Allora siamo vicini come pensiero. Bene. Grazie Gianni, è stato un piacere davvero. Grazie Giovanni, un saluto a tutti. Alla prossima, prestissimo, tanto ci torneremo a incrociarci di nuovo. Scusate, 800 24 00 24. Ricordo ancora, dopo le 15 abbiamo tutti gli aggiornamenti sul Donnarumma Day. Piero da Ravenna, Piero. Ciao, grazie per la convocazione. Beh, prima cosa, vai. È stato un momento bellissimo con Di Biasi, con la telefonata dell'ascoltatore albanese. Noi vorremmo che questa fosse l'Italia che viene apprezzata all'estero, così come lo è stata in questo caso. È stato molto bello. Invece, per quanto riguarda l'affare Donnarumma, vorrei dire che secondo me è sbagliata tutta la prospettiva, la visione di queste discussioni. Cioè, si sta parlando di Donnarumma a 19 anni come della bandiera del Milan. Non è un po' presto? Sì, bandiera futura, ecco, possibilità di diventare bandiera. Stiamo parlando di fantascienza. È un ragazzo di 19 anni, ok? 18. Giovanili 18 anni, meglio ancora, che ha tutto il diritto di pensare al suo futuro anche in termini economici, come facciamo tutti, come fai tu, come faccio io, come facciamo tutti quanti, anche perché non sappiamo, in un mondo difficile come quello del calcio, legato anche agli infortuni, quanto potrà durare una carriera. Però perdonami Piero, gli basta fare il primo anno con 5 milioni e ti assicuro che le preoccupazioni sul futuro, gli sono quelle che abbiamo io, te e il 99,9% delle persone, gli sono passate. Hai ragione, per lui e per le generazioni successive. Ci sono persone che guadagnano 100 milioni di euro l'anno e non ne hanno abbastanza. Ma no, ma questo è perfettamente ragione. Io credo però, Piero, però sì, è la logica del mercato. Me è considerarlo una bandiera. era adesso, è un po' troppo presto, tutto lì. Però c'è un punto di mezzo tra questo e ad esempio il messaggio che leggo: per la stragrande maggioranza dei milanisti e non solo, Gigi oramai appartiene al passato del Milan. Voi capite il danno che si è fatto? Edoardo da Roma, abbiamo pochi secondi ma lo voglio fare. Edoardo. Sì, sì, grazie. Vai. Per avermi chiamato. No, io anch'io sono d'accordo con il signore ha chiamato in questo momento. Allora, Gigi Donnarumma, dobbiamo partire da un presupposto: è un top player e lo dimostra il fatto che il top player a 18 anni lo è perché c'ha Mino Raiola. Se avessero Mino Raiola, se gli avessi chiesto io di fare il procuratore a me, manco mi prendeva. Anche giocatori che non sono top player, però diciamo è un potenziale top player. Poi dai, dimmi che c'è il GR. Allora, i top player giocano nelle migliori 8 squadre al mondo che si possono giocare nella finale di Champions. Basta, il discorso è questo: questo ragazzo deve giustamente insieme al suo procuratore andare a giocare nelle squadre che gli possono permettere di arrivare a quel livello, lì. Oggi il Milan non è questo. Oggi il Milan non lo è di sicuro, ma magari lo sarà fra 3-4 anni, e secondo me Donnarumma ha tutto il tempo di aspettarlo avendo 18 anni, però ogni posizione è legittima. 800 24 00 24, il GR, poi vi raccontiamo tutto del giorno di Donnarumma. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Devo stare seduto in panchina a guardare. O puoi entrare in campo. Ricominciamo tutti ai nostri posti. E andiamo. Tutti convocati. Ve l'abbiamo promesso, ecco il momento di tutti gli aggiornamenti sul caso Donnarumma. State scrivendo in tantissimi: 800 24 00 24, chiamate per intervenire, 349 238 6666, sms, whatsapp. Leggo qualcosa anche da Facebook, perché ci potete seguire in diretta video sulle pagine di Radio 24 e di Tutti Convocati trattino Radio 24. Giuseppe che scrive: fossi nel Milan manderei in tribuna Donnarumma per tutto il tempo in cui è sotto contratto, sarebbe anche un segnale all'esterno che non si scherza. Poi Ciro: vi scandalizzate di Raiola, lui è quello che è il calcio, cioè un affare, nel bene e nel male è così e non si può farci niente. Ancora Manfredi: a quelli che dicono che Raiola fa il bene il suo dovere, voglio ricordare che un certo Mihajlovic ha fatto benissimo il suo ed è stato cacciato dal Milan. E poi ancora c'è un altro amico che invece manda un sms per spiegare che Donnarumma legittimamente vuole giocare subito alla Champions perché non sa cosa accadrà nei prossimi 5 anni. Carlo Laudise, inviato della Gazzetta dello Sport, prima firma del mercato. Ciao Carlo. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, ci aiuti a fare un po', a tenere un po' il filo di questa giornata, detto che l'incontro, se sarà, ma sarà quasi certamente oggi, sarà nel pomeriggio, da metà pomeriggio in poi? Sì, sì, nel tardo pomeriggio, virtualmente a casa Milan, perché per paradosso, dopo tanti misteri sugli incontri precedenti, a questo punto credo che tutti optino per la trasparenza nel D-Day, no? Di questa vicenda che sicuramente appassiona il sentimento popolare. Cosa dice Donnarumma a 18 anni? Ha la fortuna di essere titolare nel Milan, che lo ha lanciato, perché non rinnova? Questa è la domanda, no? Invece Raiola pone le sue aspettative, che sono state già espresse in parte anche dagli sms, dai messaggi che hai letto prima. Che non credo siano aspettative, però perdonami Carlo, poi tu conosci meglio di tutti noi questo mondo. Cioè, ad oggi non credo siano aspettative diverse per una questione economica intendo di stipendio di Donnarumma, rispetto a quelle che sono le prospettive che gli dà il Milan, no? Sì, non dimentichiamo, lui adesso guadagna 150.000 euro, no? Sì. In linea con quella che è la sua traiettoria sottostimata, perché l'altra domanda è: quanto vale Donnarumma? Donnarumma è un diamante grezzo, non ha prezzo, perché secondo me l'argomento principale odierno, al di là poi delle ripicche che sono emerse in queste settimane anche sulla gestione mediatica della vicenda, sarà proprio l'entità della clausola, perché il passo in avanti che il Milan ritiene aver fatto è quello di accettare una clausola, non certo quella dei 10 milioni proposta da Raiola, che è quasi offensiva, io la definisco così, ma insomma, ma infatti no, ma attenzione, io faccio una valutazione puramente di mercato. Gianluigi Donnarumma è un giocatore sotto contratto fino al 2018, quindi ha 13 mesi, 12 mesi soltanto di contratto, quindi ciò abbatte il suo valore. Sì, no, non vale, quindi, quasi nulla oggi, diciamo, per le logiche del mercato. È paradossale quello che sto dicendo, ma è così. Quindi la provocazione di Raiola ha un senso, poi è logico che non abbia quella valutazione, quella clausola. Io rimango di un'idea che sarebbe più logico, più sensato non fissare un prezzo, non fissare una clausola, ma evidentemente pensare, come è stato per Pogba, a un percorso di crescita che poi incentivi tutti eventualmente a un cambio di maglia che porti, cioè, più denari a tutti. Provo a tradurla: non scriviamo una clausola, magari non rinnoviamo nemmeno a 5 milioni subito, perché poi i rinnovi portano anche commissioni, e Pogba ne ha fatto praticamente uno all'anno con la Juve e tutti dimenticano, fissandosi solo sui famosi 27 milioni finali presi dalla Juventus. Ci mettiamo d'accordo che se poi io fra un po' di anni ti porto 100 milioni, prendo una commissione di un certo sorridiamo tipo. Non dico una percentuale, tutti, perché poi ci sono i regolamenti, e quindi una commissione, no? Sì, possiamo sì, immaginare sì, così il compromesso. Ma questo però non mi pare che sia agli atti, cioè non è una cosa che ancora è stata esplorata dalle parti. Magari potrebbe avvenire oggi. Magari invece c'è una rottura, non ci sono i tempi perché ci sia effettivamente questo tipo di dialogo. Diciamo che c'è molta attesa. Io ho concluso oggi il pezzo, ho chiuso il pezzo invocando la presenza di un arbitro, sì, che ho chiamato buonsenso, sì, perché è evidente che ne occorre tanto, no, in questa fase. Da parte di tutti, anche perché parte di quel tesoretto di empatia con Donnarumma è già stato consumato. Comunque vada a finire questa vicenda, insomma, i messaggi dei tifosi li abbiamo letti. Appunto, ma questo è anche una parte della polemica che io credo che oggi Raiola esporrà a Sassone, perché accusa la società di aver messo il giocatore alla berlina, e cioè di averne fatto una questione dandogli fretta, mettendo sul banco l'imputato, sì, e questo, diciamo, è un argomento. Io posso dirti come la penso io? Sì. Che Fassone non poteva fare altro. Ha fatto un capolavoro due mesi fa. Se si parlava di Donnarumma, si diceva: se perderanno Donnarumma sarà la conferma che non sono all'altezza. Oggi i tifosi del Milan parlano una lingua diversa. Ma su questo sono d'accordo. Io non sto criticando il Milan, sto cercando semplicemente di far capire che è una situazione complessa. Il Milan purtroppo, per il protrarsi del closing, si è trovato con dei tempi schiacciati, perché se i nuovi fossero entrati sei mesi prima, tutto si sarebbe potuto svolgere con più serenità. È evidente che adesso Fassone e Mirabelli hanno dovuto svogliare una matassa con l'incubo di essere accusati di non aver trattato con l'adeguata importanza il capitolo. E invece loro si stanno dimostrando sicuramente di piglio di. Ora, secondo me Mirabelli nella fase iniziale ha dato le regole, diciamo, che sicuramente non sono piaciute a Raiola, tant'è vero che oggi al tavolo ci sarà solo Fassone, perché Fassone, l'amministratore delegato, anche per come ruolo, ma anche soprattutto come modalità di come suo carattere, è certamente più portato alla diplomazia. Quindi vedremo se questa presenza basterà a ricucire e a dare quindi un verdetto, se non positivo già in giornata, almeno una fumata grigia. Sì. L'auspicio è che non sia una fumata nera, perché altrimenti qui i temporali sono all'orizzonte. Sarebbe un peccato per tutti. Grazie Carlo. Grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie, ciao. Carlo Laudisa. Io dico anche che speriamo di andare a dormire con le idee chiare, perché non se ne può più di questo tormentone. Ci sono Lorenzo da Firenze e Filippo da Messina. Comincio però a salutare Evaristo Beccalossi. Ciao Evaristo. Ciao, ciao. Per caso che tormentone sei? Che non posso, oggi è il D-Day, carissimo. È il Donnarumma Day. È il Donnarumma Day. So che tu non dormi da settimane su questa vicenda. E quindi rimane, non può andar via. Con le condizioni lì, sai che metteranno la clausola, però credo che insomma il Milan abbia fatto un'offerta importante, quindi insomma, poi tra l'altro mi sembra che sul mercato sia funzionato, che Mirabelli si sta muovendo bene, mettendoci la faccia in una situazione complessa degli ultimi mesi, rilevando e cambiando proprietà dopo tanti anni appunto da Berlusconi, quindi calcisticamente si stanno muovendo molto quindi non bene. C'è motivo per cui se ne vada da un'altra parte, dai. No, ci potrà andare magari così. Tra un po', però sì, no, io oggi, credo, oggi dico oggi. Oggi credo che sia il minimo, insomma, che se mi auguro per lui sarebbe brutto, cioè il Milan gli ha permesso di arrivare a titolare, avere un futuro in nazionale, uno dei più forti portieri per 10-15 anni, credo che qualcosa magari al di là degli interessi personali debba dare al Milan. Sì, deve fare una riflessione. Evaristo, ti chiedo, poi ti faccio sentire ieri Spalletti su Icardi, voglio sapere cosa ne pensi a proposito dei giovani rampanti, però ci stanno aspettando Lorenzo e Filippo, allora li facciamo in sequenza. Lorenzo. Buongiorno. Vai. E grazie per la convocazione. Dai. Volevo intervenire velocemente su questo affare a Roma. Da qualunque punto si voglia vedere ci sono ragioni più o meno comprensibili, però alla fine il clima che si è creato mi fa pensare che Donnarumma vada via. Vada via perché questa sceneggiata anche contro i tifosi o con i tifosi contro, cioè ormai la pressione, il giocattolo si è un po' rotto. Sì, che sia uno strappo non più ricucibile. Sì, ma secondo me Raiola ha voluto in qualche modo creare, d'accordo con il suo assistito, per cui Donnarumma, secondo me, ma sarò smentito tra 5 minuti, tra via. Andrà in un top club perché tiene un top player e andrà a guadagnare non tanto di più dell'ultima offerta. Vediamo, abbiamo solo qualche ora da aspettare, sperando. Filippo. Allora, volevo dire una cosa velocissima su Donnarumma. Secondo me il Milan fa bene a prendere tutti quei soldi, perché ormai quello che rischia realmente è Donnarumma a sti livelli. E poi volevo dire qualcosina su Allegri. Sì. Siccome io ritengo che le partite, penso che le partite siano episodiche, purtroppo nella finale ci sono stati degli episodi negativi. La Juventus secondo me aveva 3 peccori finali, Higuain aveva 4-5 kg in più, di sicuro, non capisco. Vabbè, allora Higuain non era in condizione, poi la seconda pecca, dai Filippo. La seconda pecca è Buffon che da 3-4 anni ormai fa delle papere. E la terza pecca? E Chiellini, per me Chiellini... Mi dispiace dirlo, è l'anticalcio. Filippo, è anticalcio. Stiamo parlando di uno dei pilastri della Juventus che ha vinto tutto non in Italia dubbio, per 6 anni, della non nazionale. Dubbio, adesso però magari non ti piace, questo è legittimo, però l'anticalcio. Aspetti, per un motivo semplice. Oggi esiste il fallo di troppa irruenza. Sì. E lui è un irruento. No, ho capito Filippo, però voglio dire, nella finale di Cardiff non è che si è notato, non è che sia Chiellini quello che è crollato. È crollato tutta la Juventus nel secondo tempo, però grazie per averci chiamato. Allora, Evaristo Beccalossi, ti faccio sentire Spalletti su Icardi, un altro che fa giovane, che fa tanto discutere, voglio sapere cosa ne pensi. Icardi è il capitano dell'Inter e poi... naturalmente strada facendo, oltre lui, oltre alle qualità di grandissimo campione, di grandissimo calciatore qual è, avrà il doppio lavoro di indicare anche ai suoi compagni di squadra quelli che debbono essere i comportamenti dentro lo spogliatoio. Se noi si va a cercare quello che è il valore della parola capitano, basta leggere quello che dice qualsiasi vocabolario e quello è. Allora, questo ieri Spalletti su Icardi, volevo sapere da Evaristo Beccalossi che cosa si aspettava, se è rimasto deluso, tanti interisti speravano dicesse Icardi non sarà più il capitano. Ma no, ma non credo che... Cioè, è nel mirino, Evaristo, dai. Ma è nel mirino, ma cosa vuol dire? Cioè io penso una cosa, lui ha fatto anche delle dichiarazioni che tante volte cercava di spronare qualche compagno e compagno magari... non sentiva, però l'Inter è abituata a avere dei giocatori, degli allenatori con personalità, e il compito di Spalletti sarà quello anche di fargli capire a Icardi, essendo giovane, con i gol che li ha sempre fatti, questa situazione, che il capitano deve anche farsi sentire e avere, tra virgolette, la personalità di essere un trascinatore. Ma è ancora giovane, adesso io credo che anche la convocazione con l'Argentina a Mauro gli farà fare un salto incredibile sul piano della personalità, perché potenzialmente è un giocatore che sa fare gol, quindi deve completare con altre situazioni una carriera che è uno dei giocatori più forti in circolazione, quindi sono cose normali che andavano già fatte prima, secondo me. Spalletti l'ha detto, perché ha personalità, e l'Inter negli ultimi anni, allenatori di personalità, parto da Mancini, Mourinho e Spalletti, hanno il carisma e la personalità per gestire in un certo modo lo spogliatoio, e quindi mi aspetto molto da Spalletti, da Icardi, per questo salto di qualità che lui deve assolutamente fare. Sì, io l'ho chiamata prima suggestione dell'uomo forte. Oggi parli con i tifosi dell'Inter e in tanti ti dicono: finalmente è arrivato l'uomo forte, quello che decide. Anche Mancini lo era. La differenza lo farà il contorno, credo. Sì, ma chi non fa il contorno, chi non si adeguerà, credo che Spalletti abbia la personalità per... O si sale sul treno che parte, altrimenti stai giù. Cioè, a me è piaciuto molto anche la frase di far capire il peso di quella maglia lì. Quindi in questa rosa, che non si è ancora mossa l'Inter, c'è da capire i giocatori dove vogliono andare. Inizia un nuovo percorso che devi essere tosto, perché l'anno prossimo basta chiacchiere, ma bisogna arrivare nei primi quattro, che è un posto di Champions League. E alla luce del sole, con carisma, personalità, lavorare. Cioè, lavorare, che è una parola che non mi piace, perché quando uno è all'Inter non è che è lavorare, no, devi fare un percorso e di essere orgoglioso di appartenere a questa società, e devi tirare fuori tutto. Chi non ce la fa, prego, si accomodi. E Spalletti credo che abbia questo carisma e questa personalità, e l'ha dimostrato anche a Roma, non era facile. Sì, credo gli avessero spiegato bene cosa non è andato dell'anno scorso nell'Inter. Mi sembra ieri sia stato selettivo anche nel lanciare certi segnali, il valore della squadra, quello, l'individualismo. Lo raggiungi con carisma, cioè la personalità. Quando uno parla, cioè, tu ti devi far seguire. Se non ti fai seguire, vuol dire che non sei da Inter. Quindi Spalletti ha queste caratteristiche. Quindi il messaggio per i giocatori è quello proprio: chi c'è, chi non c'è, prego, si accomodi. Ma devi ragionare da squadra, devi sapere il percorso che devi fare e devi tirare fuori tutto alla luce del sole. Non è che se essere all'Inter ti deve dare anche un 30% in più con l'ambiente, i tifosi interisti, che io ho sempre in mente il lunedì sera Inter-Sampdoria, 50.000 persone e tutti che erano lì impauriti. Ma di che roba? Cioè, non devi essere impaurito, cioè all'Inter San Siro, cioè, devi dare 120-130% in più, non in meno. Chi dà in meno non è da Inter. Insomma, in questi anni in tanti hanno dato meno. Grazie Evaristo. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Grazie Evaristo Beccalossi. Gianfranco. Sì. Vai. Buonasera. Volevo fare una considerazione. Delle riflessioni, sì, sul fatto di Donnarumma, la questione Donnarumma. In pratica, penso che bisognerebbe anche fare una valutazione su Raiola, che non è l'ultimo arrivato. Io pongo una domanda. Il Milan è stato rilevato da un broker che ha fatto reperito di capitali un po' qua, un po' là, tra cui anche un fondo di investimento. Sì, in parte debito. Sì. Sì, allora pongo la domanda: un padre di famiglia, nel momento in cui fa un esame del genere, che garanzie può dare il Milan a Però sai Gianfranco, io ti potrei rispondere che anni fa il Manchester United è stato comprato praticamente di tutto a debito, e nessuno si è posto il tema se andare al Manchester fosse una buona soluzione o no, perché il Manchester è un grande club, il Milan in questo momento forse non lo è. Però insomma, il primo mese di lavoro di Fassone, della nuova proprietà, io credo che qualcosa a livello di idee, di voglia di investire, dovrebbero anche averlo chiarito almeno sul breve termine, no Gianfranco? Anche a Raiola e a Donnarumma. Sì, sono considerazioni giuste, però il Manchester è stato acquistato a debito, ma non da un broker. No, però in tanti anche lì hanno storto il naso e per qualche anno hanno fatto fatica ad accettare i modi di lavorare della nuova proprietà. poi vediamo come va a finire. Antonio dalla provincia di Como. Antonio. Sì, ciao. Dai. Una breve considerazione su Donnarumma. Secondo me c'è stato un eccesso di enfatizzazione su questo pur bravo portiere. Però se noi ricordiamo un certo Pato, il primo anno valeva già 3 miliardi di dollari. Due anni dopo hanno fatto fatica a venderlo. Non c'è stata troppa fretta a valorizzare questo ragazzo. C'è stata anche una storia di infortuni per Pato che noi speriamo non ci sia per Donnarumma. Sì, ho capito, però secondo me non esiste un portiere che ti fa vincere un campionato. Esiste una bella difesa, esiste un bel centrocampo. Non è il caso che il Milan in questa fase monetizzi e metta lì una bella linea difensiva dove dietro ci sta benissimo un buon portiere con la P minuscola. Sì, il problema però, Antonio, l'ha spiegato prima Carlo Laudisa, che se non rinnova oggi Donnarumma non vale praticamente nulla, quindi il Milan può svenderlo, ammesso che trovi una soluzione che va bene a Minoraiola, e può altrimenti al massimo per ripicca tenerlo in tribuna per un anno e fargli perdere il mondiale del 2018, ma se non rinnova oggi il valore sul mercato di Donnarumma non ci rifai la linea difensiva. Paghi lo stipendio di un paio di giocatori al massimo. Alessandro da Varese. Buongiorno a tutti, grazie per la convocazione. Vai. Tifoso del Milan, due cose velocissime. Io penso che Allegri, nostro ex grande mister, non se ne sia andato semplicemente perché non ha trovato una squadra adeguata. L'unica panchina di livello in Europa era il Paris Saint-Germain, ma secondo me era più rischiosa di quella della Juventus dell'anno che verrà. E su Donnarumma io concordo comunque con l'ascoltatore precedente. Secondo me a 18 anni il ragazzo è bravissimo, sicuramente gli esperti hanno evidenziato le loro qualità, però secondo me è altrettanto vero che Mino Raiola è stato molto bravo a cavalcare l'onda del mondo del calcio che sta disperatamente cercando il nuovo Buffon. Non lo sapremo se lui sarà il nuovo Buffon. Ha fatto delle belle parate quest'anno, ma ha fatto anche le sue belle papere, ma tutto gli è stato perdonato. E poi vorrei evidenziare cosa che da settembre non avverrà, su questo hai perfettamente ragione. Ed è un altro. Dai che siamo in chiusura, Alessandro. Sì, guarda, velocissimo, l'ultima cosa che volevo dire: un conto è fare il portiere nel Milan di oggi, che prendi 20 tiri, entri nel ritmo partita, ti esalti e vai come un treno. Un conto è fare il portiere di una grande squadra, arrivano due tiri a partita e li devi prendere, non ci sono stati. Sì, però io non credo Alessandro che il valore di Donnarumma sia in discussione, così come è in discussione che ha fatto anche degli errori non pochi in questo anno e mezzo, primo anno e mezzo di carriera. Però vediamo come va a finire, domani ve lo raccontiamo dopo il GR delle 14. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Edoardo Lavezzari in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Vi do appuntamento domani dopo il GR delle 14. Ciao! Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti!